Palla Spicchi di Dario Ricci. Buonasera, eccoci ritrovati, seconda giornata di ritorno con le Final Four di Milano, di Coppa Final Eight, anzi di Coppa Italia, il 10 febbraio la finale già all'orizzonte, ma il campionato intanto qualche risultato interessante lo regala. Intanto un saluto a Giorgio De Luca in redazione, a Roberto Scaltritti in regia. Dicevamo dei risultati, beh, una Milano che trova sicurezza anche al Forum e travolge una Bologna in piena crisi, Avellino che fa soffrire invece la capolista varese fino al supplementare, poi però i varesini in trasferta la spuntano di un solo punto e sempre di un punto, di appena mezzo canestro. Caserta riesce ad avere la meglio a Cremona, altro importante risultato per la squadra di Sacripanti, mentre veleggia con il vento in poppa Venezia, che dopo aver battuto proprio Varese in trasferta tre domeniche fa non si ferma più. Questi i risultati: a 7 Emporio Armani Milano, 6-3 Bologna 91-68, Banco di Sardegna Sassari, Sutor Montegranaro 106-90, facile vittoria anche per i sardi sempre secondi in classifica, Scavolini Banca Marche Pesaro, Angelico Biella 89-76, vai marchigiani, lo scontro salvezza, Varese che passa sul campo della Sidigas Avellino per 83-82, come dicevamo, 74-73 il successo della Juve Caserta sul campo della Vanoli Cremona, vince in trasferta anche l'Umana Reyer Venezia sul campo della Trenkwalder Reggio Emilia 75-69. Attualmente sul parquet Cantù e Roma 24-23 per i canturini quando mancano 3 minuti e 40 all'intervallo lungo, partita apertissima, e Trinchieri che concede molti minuti in campo al ritrovato Šekić, sarebbe un'addizione importante questa nella roster dei canturini. Allora, classifica: Varese in testa con 30 punti, Sassari 28, Siena impegnata domani in trasferta a Brindisi 24, Roma e Cantù attualmente in campo a quota 22, Milano 20, Venezia 18, Brindisi, Reggio Emilia e Caserta 16, poi uno scalino di 4 punti importante perché tra Caserta 16 e Bologna e Cremona a quota 12 ci sono appunto queste 4 distanze, queste 4 lunghezze, 10 punti per Montegranaro, Avellino e Pesaro ad 8 punti, chiude Biella ormai in crisi nera a quota 6. Partiamo subito con i nostri collegamenti da Milano, dal facile successo dell'EA 7 Emporio Armani Milano sulla 6-3 Bologna, dicevamo 91-68. Roberto Nardella, direi che c'è stata partita fino all'intervallo lungo, poi Milano ha preso il largo. Buonasera. Allora, buonasera qui dal forum di Assago. Finisce 91-68 per i padroni di casa, ultimo vantaggio targato 6-3 Bologna sulle 22-24 firmato in apertura di secondo periodo dall'ex della partita, uno degli ex della partita, come Mason Rock, che prima della gara aveva ricevuto anche una targa celebrativa per le sue 215 partite con la maglia dell'Olimpia Milano. Dicevo, l'ultimo vantaggio di Bologna proprio firmato da Mason Rock in apertura di secondo periodo, poi gara a dir poco a senso unico con Milano che ha spostato anche i punti di un ritrovato Jacopo Giacchetti per scappare via praticamente fino al 49-37 del fine del primo tempo e poi per volare addirittura sulle più 33 nella seconda metà del match, in una gara davvero a senso unico con Milano che appunto produce un 111 di valutazione contro il 57 di Bologna, e soprattutto per Bologna fare la partita in negativo, Asburg, Smith e Minard che chiudono con appena 6 punti realizzati in 3, con una media invece stagionale per i tre stranieri di Bologna di 34, questo fa tutta la differenza del mondo, come dall'altra parte per Milano la differenza la fa appunto Jacopo Giacchetti. Noi abbiamo anche come ospite coach Sergio Scariolo, a cui appunto chiediamo un'opinione sulla partita e sul fatto che Milano sembra finalmente essere sulla strada della piena guarigione. La partita ha preso una buona svolta dopo i primi 5-6 minuti quando aveva cominciato a muovere la panchina. Oggi i giocatori che sono usciti dalla panchina hanno dato un grande contributo, cominciando Bremer e Radosevic, che immediatamente hanno alzato il tasso di aggressività della squadra. Poi Giacchetti ha fatto un'eccellente partita, anche Fozzis nel primo tempo è andato molto bene, quindi direi che a parte i primi 5 minuti in cui eravamo sotto di 6 punti, da lì in poi abbiamo cominciato a difendere. Quando difendi e prendi rimbalzi puoi correre, e questa è una cosa che questa squadra, questa nuova versione, sicuramente può fare di più di prima, quello di proprio riuscire a sfruttare di più le sue caratteristiche in campo aperto. Non abbiamo giocatori, diciamo, tanti giocatori che possono, che sono naturalmente da muoversi senza la palla, sono molto più da avere la palla in mano e giocare quando hanno la palla in mano. Però pian piano stanno capendo che con Green e Bremer possono anche correre, sperare, aspettare che la palla gli arrivi più avanti, e pian pianino stiamo facendo sempre più canestri in contropiede, vero? E coach, poi viste appunto le assenze di Gentile e di Basile, in questo caso Giacchetti, come dicevi tu qualche istante fa, è stato un bel plus in questa partita. Sì, sì, senz'altro sono molto contento perché ho avuto un atteggiamento molto buono, molto positivo, molto entusiasta, ovviamente molto professionale, sempre, in qualunque momento, mai un cattivo atteggiamento, mai un broncio, sempre ogni giorno allenamento con modo giusto in cui deve stare in campo un giocatore di squadra, una brava persona com'è, per cui siamo contenti sinceramente di averlo con noi. Sono personalmente molto contento che sia arrivato anche il momento per dargli uno spazio importante in una partita. Allora, noi ringraziamo coach Sergio Scarola per il suo contributo qui con gli amici di Radio 24. Se non ci sono altre domande da studio, io vi ridarei la linea. Perfetto, perfetto. Roberto Nardella dal Forum con Sergio Scariolo. Insomma, abbiamo visto che piano piano anche Milano comincia a consolidarsi da un lato, a correre dall'altro, arrivano canestri facili e quindi più fiducia e anche più voglia di far fatica in difesa. Per Bologna staremo a vedere se questo... settima sconfitta consecutiva metterà addirittura a rischio la panchina di coach Finelli. Allora, Stefano Valenti, ben trovato Stefano. Ciao, buonasera. Stefano, con te vorrei un po' analizzare quello che sta succedendo in coda, perché arriva un successo importante di Pesaro su Biella, e una Pesaro che dimostra che l'orgoglio, la voglia ce l'ha per continuare a lottare. 25 punti di Stipcevic, ex milanese, che quantomeno mette in cascina per i pesaresi regia, ma anche punti importanti, 16 per Barbour, 15 per Mac. Per quanto riguarda Biella, i 25 di Johnson non bastano insieme ai 16 di Pickney. Ecco, una Biella in crisi nera ha già mollato questa squadra, Stefano? Ma no, guarda, non credo, siamo solo alla seconda di ritorno e la situazione è estremamente fluida, perché Montegranaro è a due partite e Pesaro e Avellino a una vittoria, quindi Biella ha ora terminato la sua rivoluzione con l'ingaggio, che poi è un ritorno, di Kevin Pinney, e quindi credo che sarà in grado di mostrare un volto diverso da quello che abbiamo visto fino ad oggi. La cosa che però purtroppo Biella non potrà cancellare è lo 0-2 con Pesaro, perché già all'andata Pesaro è stata capace di vincere il Piemonte, quindi questo chiaramente appesantisce la posizione di Biella. Ma io credo che quel posto, quell'ultimo posto che porterà alla retrocessione nel nuovo campionato, che sarà lì sotto la Serie A, probabilmente sarà deciso nell'ultima fase della stagione regolare. Non credo che una delle pericolanti sarà staccata, non mi sembra che l'equilibrio c'è e resterà probabilmente fino alla fine. Intanto c'è da registrare questa, appunto, questa Scavolini che nella nuova versione, con gli innesti giusti, quantomeno ha ritrovato un buon grado di competitività e anche qualche punta offensiva interessante, no? Ma sì, sicuramente, io credo che l'ingaggio chiave sia quello di Stipcevic, che aveva già mostrato cose buone a Varese, ha provato il grande salto a Milano, pure se il ruolo era molto diverso partendo dalla panchina, non è riuscito, ma forse è semplicemente finito negli ingaggi che non funzionavano dentro l'Olimpia, non tanto per responsabilità sue. A Pesaro ha trovato una squadra e un allenatore che gli ha dato carta bianca. Stipcevic è un buon giocatore, sa far canestro, è un leader, e qua c'è da rimettere in piedi una squadra e c'è da cambiare soprattutto un playmaker, servono tutte queste qualità. Lì ce le ha, e credo che per la lotta a salvezza di Pesaro Stipcevic sia il vero valore aggiunto, anche se il giocatore come Barbour ha sicuramente un ottimo talento. Il talento non manca a Pesaro, e credo che mi sembra che perlomeno si sia rimesso un po' in carreggiata, perché questa vittoria, ripeto, è un 2-0 pesante per cominciare soprattutto a rasserenare la mente. Intanto 30-28 finisce il primo tempo, diciamo così, il secondo quarto di Cantù-Roma, 30-28 per i canturini. Un minuto lo dedichiamo anche a Cremona-Caserta. Vince Caserta, ennesima medaglia al valore della stagione straordinaria che stanno facendo i ragazzi di Sacripanti. Ionucias piazza 20 punti, 12 a Kindele con 4 rimbalzi. Per quanto riguarda Cremona invece Jarius Jackson 15 punti, 14 per Cotti, 11 per Lance Harris. Beh, insomma, una Caserta che quasi ci toglie le parole di bocca per il campionato che sta facendo, con le condizioni in cui lo sta facendo, Stefano. No, senza dubbio, 16 punti classifica, sono gli stessi di Reggio Emilia e Brindisi che parteciperanno alla Final Eight di Coppa Italia, pure se Brindisi deve giocare domani il posticipo con Siena. È vero, è una favola dietro l'altra. L'ultima è quella di Luigi Sergio, questo ragazzo campano che si è aggregato alla squadra solo per permettere a Sacripanti di fare gli allenamenti in 10, poi stante la situazione di difficoltà economica è stato tessato e anche oggi ha messo la sua tripla. Sta tirando con il 67% da 3, il 67% da 2, il 100% ai liberi, classe 88. Insomma, come dire, lui ha colto l'opportunità della crisi e Caserta ha messo dentro un ragazzo che da 10-12 minuti di media e sta tenendo in campo, nonostante la sua storia sia sempre stata legata a quella dei campionati minori. Vittoria importante con un canestro di Achindele decisivo contro la squadra Cremona che era reduce da due vittorie in trasferta segnando 92 punti e mezzo di media. Dicevo prima, campionato equilibrato e comunque un'altra piccola storia di questa della favola di questa Juve Caserta che veramente non vuole morire la società, ma sul campo la squadra sta facendo cose inattese. Palla spicchi. E allora, come dicevamo, ci vuole un supplementare alla Cimberio Varese per passare sul campo della Sidigas Avellino, 83-82. Allora subito ad Avellino dal nostro Carmelo Prestisimone. Buonasera. Sì, ciao Dario, buonasera, bentrovati qui da Avellino, dal Pala del Mauro. Mi viene subito un titolo perché c'è vita finalmente su Avellino, perché i campani giocano una buona pallacanestro, però alla fine incassano un colpo durissimo, pilotati da un direttore d'orchestra autentico come Jakalakovic, appena arrivato al Galatasaray, 14 punti, 9 assist, conosciamo il suo curriculum, campione d'Europa, vincitore dell'Euroliga con il Barcellona nel 2009-2010, e perdono due punti che sembravano possibili, soprattutto quando sul più 2 a 36 secondi dalla fine dell'overtime Lakovic ha scoccato una tripla che poi ha ballato sul ferro ed è uscita, mentre invece la tripla del match la fa Mike Green, che tra l'altro ha una vaga somiglianza con Apollo Creed ha messo KO Avellino, allora quindi ci stanza e ha messo KO Avellino. Io sono con un ospite prestigioso, il coach di Varese, Frank Vitucci, che fino a qualche mese fa era ad Avellino e ha gestito, insomma, con grande sagacia, con grande saggezza i suoi uomini, rotazioni cortissime perché c'era Dunston gravato di 4 falli, poi è uscito negli ultimi secondi. Coach, allora, insomma, Varese che riesce a vincere una partita difficilissima qui ad Avellino, complimenti, te li rifaccio. Dove, ecco, i tuoi hanno vinto questa partita? Ma credo dando dimostrazione fino alla fine di provare a fare le cose giuste anche sotto pressione, anche in momenti difficili quando la partita sembrava scapparci di mano, però questa è una squadra che già più di una volta ha dimostrato la consistenza, soprattutto mentale, quindi magari anche pasticciando qualcosa, soprattutto in attacco, però poi abbiamo trovato le giocate chiave offensive e due giocate difensive importanti che in una partita così punto a punto hanno portato la partita dalla parte nostra. Penso che se avesse vinto Avellino non ci sarebbe stato molto da recriminare, perché Avellino ha giocato un'ottima partita e quindi penso che sarà anche molto difficile ad adesso per chiunque giocare e vincere qui, e questo dà ancora più valore alla nostra vittoria. Oggi coach, scegliere un MVP per Varese, insomma, è difficilissimo. Io vedo delle cifre qui, lo scout Banks 23 punti, 6 su 10 da 2, 1 su 2 da 3, Polonara 20 punti, 4 su 4 da 2, 4 su 6 da 3, 8 palle recuperate, Mike Green il match winner con quella bomba, 12 punti. Insomma, è chiaro che tu ci tieni a elogiare il collettivo, però oggi insomma Varese ha dimostrato di avere delle grandi individualità. Sì, ma sono individualità che prendono spicco e risaltano quando è solo nella squadra, quindi è importante che la squadra giochi con grande attenzione, poi capisca dove è il caso di andare, come dire, a chiudere. Oggi magari l'ha chiusa Mike Green con un grande canestro da 3 punti alla fine, però dietro c'è stato il lavoro degli altri che appunto le cifre testimoniano, e questa deve essere la forza, perché altrimenti l'individualità fine a se stessa non porta molto avanti. Di questo non è la prima volta che abbiamo questo tipo di controprova in campo, ed è l'aspetto più importante, più positivo che abbiamo dall'inizio del campionato. Ultima battuta, tu sei veneziano, però hai vissuto per un paio di stagioni qui in Campania, un po' scaramantico lo scudetto, insomma, incominciate a pensarci magari, eh? Ma direi di no, onestamente. Innanzitutto non per scaramantia, perché non è il nostro obiettivo principale. Devo dire che noi restiamo nel ruolo di sfidanti, che è quello che più ci confà. Ci sono squadre che stanno andando benissimo in questo momento, dico Siena, Sassari, Milano, che sta sicuramente tornando su, Roma sta facendo molto bene, Cantù, quindi voglio dire, noi siamo dei concorrenti, siamo degli sfidanti, tali dobbiamo restare, siamo molto contenti di quello che stiamo facendo, perché è un po' più di quello che avevamo preventivato, però al momento il nostro pensiero si deve fermare lì. Bene così, grazie a Franco Vitucci. Dario, se hai domande, siamo qui. No, grazie a entrambi, a coach Vitucci e a Carmelo Prestisimone da Avellino. Facciamo un salto nel vedere il tabellino di Reggio Emilia Venezia che non si ferma più e che passa anche Reggio Emilia 75-69, 27 punti per Simon Zevic, 7 su 8 da 2, 4 su 8 da 3 punti e 6 rimbalzi, e che si sommano ai 19 in casa veneziana di Diawara con 7 su 11 da 2, 0 su 1 da 3, 5 su 8 liberi e 7 rimbalzi, 3 perse, 3 recuperate, 3 assist per un 25 di valutazione per il francese. Così Venezia passa a Reggio Emilia, malgrado tra gli emiliani Donnell Taylor faccia sempre la sua parte con 26 punti, 6 su 13 da 2, 4 su 9 da 3, un 24 di valutazione e 15 più 8 rimbalzi di Greg Brunner sotto canestro. Carlo Genta, ben trovato. Come ciao, stai? Dario. Tutto bene, Carlo? Domani ti aspettiamo alle 14, anzi siamo tutti convocati da te, eh? Eh sì, domani un sacco di temi di cui parlare, tra l'altro ho appena segnato Chivu. Inter 1, Torino 0, e te la do così al quinto minuto su punizione. Ecco, quindi questo, vedi come ci incrociamo. Quindi Inter in vantaggio col gol di Chivu, però chiudiamo la parentesi calcistica, se no giustamente qua gli appassionati di basket ci tirano le orecchie. Carlo, beh, insomma, domani tocca Siena e ti chiedo subito, quali potrebbero essere le conseguenze di questi scossoni in casa Montepaschi, che ce ne stiamo occupando abbondantemente, non tanto sul futuro, perché quello forse è già in qualche modo delineato, ma sull'immediato presente della Menzana? Ma sull'immediato non credo possano esserci, insomma, conseguenze al di là di quelle emotive, di quelle delle preoccupazioni per il futuro, per l'appunto, Dario. Siena, insomma, è per il momento una squadra di pallacanestro, una squadra di pallacanestro che vede un futuro piuttosto incerto, quindi ti ripeto, le conseguenze possono essere più che altro di preoccupazione, non credo una volta si alza a palla 2 ci si penserà più di tanto. Credo che Banchi possa isolare sufficientemente la squadra da queste preoccupazioni per il futuro, poi il resto francamente è un po' difficile da leggere. Staremo a vedere. Allora, intanto grazie, ci ritroviamo domani alle 14 con tutti i convocati, con Carlo Genta. Chiusura col nostro Flavio Tranquillo. Ciao Flavio. Buonasera. Allora Flavio, un paio di minuti li dedichiamo innanzitutto a questa ritrovata marcia sicura di Milano, no? Sembra che la nuova vecchia Milano funzioni molto meglio di quella nuovissima approntata a inizio stagione. Beh, sicuramente è così oggettivamente, altrettanto sicuramente è un test valido ma non definitivo quello di queste partite della serie positiva, e oltretutto stiamo parlando di una squadra che non ha più l'Eurolega e ha Marques Grill, che sono due cose che sicuramente nel breve periodo possono aver avuto un impatto. Quello che avranno nel medio e nel lungo dipenderà poi da molti altri fattori che andremo a leggere piano piano. Una domandina in chiave NBA: si discute sull'esclusione di Gallinari, sicuramente la sua migliore stagione dall'All-Star Game. Quest'anno forse quella convocazione poteva anche arrivare, a proposito di tutti i convocati. Poteva arrivare, ma non trovo scandaloso, ammesso che ci possa essere mai qualcosa di scandaloso su questo argomento, ovviamente no, però non trovo scandaloso che non ci sia Gallinari. È vero che Gallinari ormai è a un livello per cui è al limitare di quella zona tra il 20° e il 30°, se vogliamo fare una classifica che è impossibile fare giocatore NBA, e quindi se continua così prima o poi va anche allo Star Game, ma non sarà mai lo Star Game a fare Gallinari o viceversa, e non sarà mai uno scandalo finché Gallinari è questo, ovvero sia un giocatore sicuramente in stracrescita, sicuramente che appartiene al novero dei titolari importanti dell'NBA, però non è, o non è ancora, gli auguro, LeBron James. Ecco, lavoriamo su quella ancora e staremo a vedere. Intanto grazie Flavio, ci ritroviamo domenica prossima, un grazie anche a Giorgio De Luca in redazione, a Roberto Scaltritti in regia. Pallaspicchi finisce qui, l'appuntamento è per domenica alle 20:30, io resto a farvi un po' di compagnia con gli aggiornamenti sul posticipo serale. Inter in vantaggio per 1-0 col gol di Chivu.